Siringe, breves brevas para tus oídos. Hey, pollo, pollo, pollo. Non hai il coraggio, eh? Capi Rex, tiro con B. Pollo hai tubato, così almeno è parso. Ti sei tirato indietro, ti hanno tirato il collo. Te ne stai sdraiato al mare, mi raccomando. Applica la crema solare per questa scottatura che ho già acceso il forno. I tuoi gioielli Johnny, metallo ossidato. Hai gonfiato i miei gioielli di famiglia al primo ascolto. Mi ero dimenticato della tua esistenza. L'altro giorno mi ha rammentato chi sei, ma poi l'ho dimenticato di nuovo. Ci provo, è che non ti posso vedere come John Cena. Ti burli dei complottisti, sì, quelli che vanno contro il sistema. Parli di rivoluzione, infatti Gianni, più falso del made in Cina. Rivoluzionato il mio stomaco e lui di contro ha rivoltato la cena. Sono stufo del rap scimmiottato dall'americano, traslato in italiano opaco come l'originale, ma col testo mal copiato. Oi, en sonora si dice Nicolo Gabriel. Hola Violeta y hola a todos los que trabajan en Radio Panamericana y a todos los escuchadores de Sonora Siringe. Yo me llamo Nicolo en arte Gabriel y esta es mi música. Buenísimo, escucho a todos y muchísimas gracias por hacerme aquí. ¡Vámonos! People that control your world by making global policies that you never vote on, and by which parties both serve and belong to these organizations and control your world. Now, here's how it works. Really easy. Why does Congress only work with the people that are divided are not aware of the policies? Hey. Horror song. Convex. Anche quando stavo dentro al vostro centro sociale, adesso che mi dissocio, da fondo ai miei affondi, e potrete stare in cerchio a guardarmi sprofondare. Non è un fatto morale, e manco di partito. La logica binaria è solo vana, aria fritta. È un parto del nemico che vuol darvi un nemico, eretto dalle macerie della vostra amicizia. Terrorizza, si terrorizza, lo stato ombra, bomba dopo bomba, orchestra e poi ci ascolta. La TV rimbomba, la minaccia sta ad est, quella vera si traveste, d'agnello e sta a Londra. Fonda una scuola da cui diffonde il verbo, corrompe ogni norma, confonde dall'interno. E l'inferno sulla terra, la sua brama primaria, mentre trama un'altra guerra, nella guerra al Padre Eterno. L'altro sotto, gli eventi dentro al mondo hanno dietro un altro mondo, nascosto ai nostri occhi a patto che non sia il terzo. Un universo a specchio, un tampo marcio come il solfo, a radici occulte che affondano nei lustri. Prendete una vanga, seppellite ogni scheletro, come bimbi albini in un rituale dell'Uganda. Muore il buon senso e ne sigillate il feretro. Lo stato è decrepito, sentite il crepitio, mentre il blu ci ha consumato lentamente. Va il fumo, fondato da un ciclope massonico accecato. Se chiedete chi sia stato, la risposta è nessuno. Avveleno e curo, questo è il loro approccio. Ordine dal caos, questo è il loro motto. Come scudi, studi astrusi, se c'è un nesso che non quadra, siete ottusi, mica acuti, fatti con il sesto e squadra. Hola Viole y hola a todos los oyentes de Radio Panamericana. Mi nombre es Nicoló, también conocido como Cavirex, el último de una serie de nombres artísticos que he adoptado desde 2013 hasta hoy, y rapeo. Al hacerlo, sin embargo, siempre me ha gustado mezclar géneros, tipos de textos, flujos, en constante investigación y evolución. En 2020 me reconecté con la fe cristiana, primero como católica y recientemente sigo el camino hacia la ortodoxia. La primera canción, Divide et Impera, es una denuncia del globalismo y la mentalidad partidista de derecha contra izquierda. Blancos contra negros, nosotros contra ellos. Es demasiado complejo para explicarlo en tiempo de radio y por eso tuve que hacer una transmisión en vivo de una hora en Instagram para discutir todas las conexiones del texto. Es la primera canción oficial que lancé con este nombre. Pero si buscas con atención en YouTube encontrarás canciones más antiguas y sabes dónde buscar. Feliz escucha. People that control your world by making global policies that you never vote on, and by which parties both serve and belong to these organizations and control your world. Now, la segunda canción, Pollo, es en cambio un insulto a Johnny Gioielli. En realidad ni siquiera estuve involucrado en el feudo original entre él y Hit. Pero como él no tuvo el coraje de responderle a Tayo, con el permiso de este último escribí el track. El día siguiente fui a grabarlo. Al no tener los números no me contestó, pero igual lo acusé de ser gallina. Y por lo que a mí respecta, sigue siendo gallina. No tiene el coraje. Obviamente no es personal, es solo una pista de distorsión. Simplemente no me gusta ese tipo de rap que imita a los estadounidenses. Ya no estamos en los 90. Saca tu estilo en lugar de copiar. Esto es Pollo. Mutilato, senza contenuto, svenduto e scontato come i saldi. Sei di seconda mano, attacchi e la nascondi. Non rispondi ad Ice? Ma dai tu che con l'altra ti tocchi e fai giochi and die per mobile. Salutami la waifu e dai su. Non sei quello che ha asfaltato Jamil? Ah no, non è mai successo. Adesso cerchi il successo attaccando chi è più grosso e poi fuggendo. Volevi scrivere un testo. La tercera canción se llama Luce da Luce y es una canción en la que, utilizando una estructura entrelazada, reflexiono sobre los misterios del cristianismo. Y aquí también me gustaría responder qué alimentos me inspiran, y puede que sea un tópico, pero yo respondo pan y vino tinto. Aquí en Toscana siempre han estado ligados a la mesa y por tanto a la comunión entre las personas. Nuestro pan no lleva sal, elemento muy criticado por gente de otras regiones. Pero este elemento lo hace perfecto para acompañar la comida, porque no tapa los sabores. Además, el pan es resultado de la levadura y del vino de fermentación, simbolizando la vida y la muerte. El cuerpo, la sangre, vaciándose como el pan toscano que renuncia a los sabores, como Cristo en la cruz, como cuando sacrificamos algo por los demás y nos llenamos de amor y contacto con los demás. Un abrazo a todos los oyentes y muchas gracias, Bio, por escucharme y acogerme en Radio Panamericana. Abunde bashmai, nektadashas ma. Tite malcuta, neue zebiana, aicana de bashmaya, afbara, ablan lachma, besuncana nia umana, bashbuklan. C'è una storia nella storia di pentimento e gioia. C'è una storia nella storia di patimento e gloria. dentro con il cuore, il mistero, la creazione. Del sesto giorno il pomo proibito e l'espulsione dal suo tempio del Gan Eden. Segue chi lo lede, poi vede il Salvatore inchiodato sulla croce. Il verbo eterno, esterno al tempo incarnato, in ogni momento nel sacramento, il centro di ciò che è giusto, il percorso angusto attraverso il mondo contagiato dall'occulto. Salva l'empio, redento e spia dalle colpe, la sua profezia gli rivela ciò che oltre il raziocinio umano, la coltre dell'Adamo, plasmato secondo la sua immagine, senza morte la sorte è un bivio, la vita vuol costringere a scegliere l'arbitrio libero come in origine, per spegnere il trangusto come fu in origine, va a vincere l'eterno sacerdote in Belvise ed è chi simile col simile in perenne fratricidio. Il serpente teste invisibile l'intrigo millenario, promette e disattende in grido, infine perde al calvario col sudario a lui inviso. Invito al perdono, il dono di ricevere il sangue e la carne, è nato dalla Vergine, la buona novella, vita eterna o decedere, devolvere alla polvere, cenere alla cenere. Nel nome della croce, luce da luce, nel nome del tre volte santo, col suo manto rosso e bianco, nel nome della croce, luce da luce, nel nome del tre volte santo, col suo manto rosso e bianco. Scatto, l'agnello immolato, il roveto ardente, il sangue sopra il porticato, e dietro alla nube scura in vetta al monte sacro, le 22 lettere con cui ci ha formato, quel fiato soffiato dentro le narici, la fortezza che protegge il gregge dai nemici, il signore degli spiriti consola gli infelici, unisce gli infedeli, spodesta i re assisi dai loro troni, è come San Francesco d'Assisi. Nutre ogni bestia al suo cospetto, conosce ogni capello, a voce di silenzio, dagli occhi dei suoi troni scruta mentre creo il testo. Nel nome della croce, luce da luce, nel nome del prepote santo, inserta su un destiero bianco. Nella sua canzone noi prole, siamo parole del Signore. Aikana dafo chnan, shbachna, lechaibai. Ula talan lensiuna, ela patsan men bisha. Amen. Esto fue Sonora Siringe, breves brevas para tu oídos. Breves brevas para tus oídos.